Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara redazione, dopo troppi giorni di discussioni sul film Umberto D, mi decido a scrivervi perché non mi ha convinto l'affermazione fatta da Pasquale Squitieri, ospite della vostra radio, che il film di De Sica fosse stato un flop assoluto al botteghino. Così sono andato a consultarmi un libro che possiedo, dedicato alle produzioni e coproduzioni cinematografiche italiane dal 1945 al 1958. Il volume riporta fedelmente tutti gli incassi, anno dopo anno, dei film italiani, con una rivalutazione in lire al 1998. I campioni italiani del 52, questo è l'anno di Umberto D, furono Don Camillo, che incassò 1 miliardo 468 milioni 833 mila lire, e Totò a colori, con un incasso di 774 milioni 750 mila lire. Umberto D è parecchio sotto, con 106 milioni 500 mila lire. Facendo la trasposizione dell'incasso del 1952 all'incasso teorico del 98, sulla base del quantitativo di biglietti staccati e dell'evoluzione del costo del biglietto, il libro riporta, per Umberto D, un incasso di 9 miliardi 589 milioni 260 mila lire. Una cifra di tutto rispetto. Ora, se consideriamo il prezzo del biglietto cinematografico del 98 e lo rapportiamo al prezzo medio dell'ultima stagione, possiamo simulare l'incasso odierno di questo discusso film in 6.412.480 euro. Questo incasso collocherebbe Umberto D in un box office dell'ultima stagione tra The Millionaire e Una notte al museo 2, sorprendendo, credo, un po' tutti. Il film innescò roventi polemiche proprio per i numerosi riconoscimenti internazionali che ottenne. Infatti la polemica verteva sul fatto che il film mostrasse la cruda realtà delle condizioni di vita non tanto di un proletario, bensì di un pensionato borghese che per anni aveva servito lo Stato ed era costretto, con una pensione mensile di 18.000 lire, per intenderci poco più di 300 euro attuali, a una vita di stenti fino al tentativo di suicidio. In altri termini, i panni sporchi laviamoli in casa e non mostriamoli all'estero. Nella polemica intervenne Andreotti, allora sottosegretario allo spettacolo, che scrisse: «Se è vero che il male si può combattere anche mettendone a nudo gli aspetti più crudi, è pur vero che se nel mondo si sarà indotti erroneamente a ritenere che quella di Umberto D è l'Italia della metà del XX secolo, De Sica avrà reso un pessimo servizio alla sua patria, che è anche la patria di Don Bosco, del Forlanini e di una progredita legislazione sociale». Per finire, pochi sanno che il film ebbe il nulla osta con l'obbligo del divieto alla visione ai minori di 16 anni, che allora era il massimo, dato che non c'era ancora il divieto ai minori di 18. Carlo. Circa 20 anni fa, volendo rivedere su videocassetta il film Umberto D, lo cercai in tutti i più importanti negozi video musicali di Milano, facendo una maleaugurata scoperta. Umberto D non era più in distribuzione e men che meno esistevano copie per un eventuale noleggio. Addirittura, in un notissimo negozio di media video musicali milanesi al reparto cinema, alla mia domanda «Buongiorno, vorrei Umberto D?» seguì la risposta tanto allucinante quanto testuale «Mi spiace, non lavoro in questo reparto». Così spiazzato chiesi alla Cineteca Nazionale di Via Palestro, sentendomi rispondere «La Cineteca non possiede copia di Umberto D. Provi a Roma». Cosa penseremmo se, entrando in libreria cercando una copia della Divina Commedia tra pile di libri di Wilbur Smith e Stephen King, alla nostra richiesta ci rispondessero che il titolo non è più in commercio? O ancora peggio, scoprissimo che per il libraio Dante è solo il testimonial di una nota marca d'olio d'oliva. Renato. Mi piacerebbe capire verso quali corsi linguistici mi dovrei orientare. Si parla di incrementare l'uso dei dialetti, ma se sono nato e vissuto per molto tempo in una regione e poi mi trasferisco in un'altra, come farò a capirli e farmi capire? E poi, dato che i discorsi politici non sono sempre molto chiari, devo anche imparare un altro dialetto che utilizza parole come transition strategy, welfare, new town, escort, eccetera. La Lega, che è molto attiva nel cercare di bloccare l'arrivo di clandestini in Italia, potrebbe indirizzare le sue capacità anche nel bloccare la fuga di cervelli dall'Italia. Luciano.

Questi nuovi attacchi stanno sfinendo veramente e finiranno per allontanare i cittadini dal mondo della politica, anche quelli che si sono sempre sentiti coinvolti nelle discussioni e sono attenti ai fatti. Stanno cercando in tutti i modi, con prove che alla gente fanno il solletico, di creare ancora scandali e la speranza di farcela per chi non vuole questo premier non muore mai. Ma i cittadini che hanno votato nella primavera 2008 e hanno rivotato pochi mesi fa, confermando il risultato precedente, non contano nulla? A che serve andare a votare se poi a chi viene eletto non si dà la possibilità di governare e ai cittadini la possibilità, dopo 5 anni, di rieleggerlo o di mandarlo a casa? Non dovrebbe funzionare così? Giulia. Cara Giulia, la politica italiana è sempre qualcosa di complesso e imprevedibile. È vero che l'espressione della volontà popolare dovrebbe essere rispettata e si dovrebbe lasciare a chi è stato liberamente scelto dagli elettori il tempo di governare. Ma non bisogna dimenticare che possono sempre succedere dei fatti nuovi, di carattere politico, giudiziario o personale, a cui un sistema politico deve poter rispondere con flessibilità. Ci sono paesi come la Francia o la stessa Gran Bretagna dove alcune volte negli ultimi decenni il Parlamento è stato sciolto in anticipo, ma è stata un'eccezione. Invece in Italia è ormai un rito parlare di elezioni anticipate un anno o due dopo le precedenti, e questo fa parte della patologia della politica che il bipolarismo, come dimostra l'esperienza del governo Prodi, non è riuscito a risolvere. In una società democratica i cittadini devono poter contare, ma la magistratura deve fare il suo corso con tutti i gradi di giudizio e non può essere sostituita dai tribunali del popolo. Ma lei ha ragione, sui comportamenti su cui non vi sono ipotesi di reato, il giudizio deve essere esclusivamente politico e non si deve chiedere alla magistratura di perseguire gli obiettivi che la politica non riesce a raggiungere. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.